lamentarmi, io di te. Tutto tempo che non torna più. Ho già chiesto agli usurai dei cervelli deboli di risolvere il mio caso. Ti dissolvi dentro me, ti risolvi senza me, neanche il tempo per estinguersi. Io ti penso raramente, te lo dico veramente. È bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, consapevole in fondo avrei rotto, avrei rotto. Raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco per pettegoli, per pettegoli, per pettegoli. Io ti penso raramente, te lo dico veramente. È bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, consapevole in fondo avrei rotto, avrei rotto. Invisibile per gli occhi tuoi sarò, e non avrai mai più cura tu di me. Non ho avuto gusto io andando via, incredibile le strane che c'è in te. Io ti penso raramente, te lo dico veramente. È bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, consapevole in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, con la forza della mente allontano i momenti che mi tornano veri, quando rara e radiosa mi venivi a cercare.